sulla mia carta d'identità, leggono, nato a Genova. Ora mi chiedono con un misto di compassione, rabbia, c'eri. Non c'eri. Io sì, lo so. Genova era una città e nonostante tutto lo è ancora, ma in più è diventata un luogo della mente, rappresenta altre cose. Il potere che si autocelebra, la sua contestazione che si manifesta, la tragedia che copre e scopre ogni cosa. Come luogo della tragedia ai livelli di Tebe, ma la tragedia nel presente non può ancora essere celebrata come metafora e questo le richiede di essere continuamente riscritta, giorno per giorno. La tragedia non ha bisogno di rappresentarsi, perché è. I protagonisti dei giorni di Genova, i suoi eroi, non possono ancora diventare personaggi. Sono troppo persone, quindi devono parlare alle persone. Questo è un racconto al presente di persone reali, amici, giornalisti. Sono già stati scritti tanti libri, fatti tanti film su Genova. Iniziano tutti nello stesso modo. Questa non vuole essere una ricostruzione fedele dei fatti di Genova, ma una cronaca di quello che io ho potuto personalmente osservare. Di solito iniziano con il prologo. Non ha bisogno di rappresentarsi, ma il potere sì, anche quello democratico. Così si inventa il G8, la festa dei potenti, dove gli otto che si autocertificano come grandi danno mostra del loro essere potenti e del loro star bene insieme. Si autoinvitano Bush, Putin, Chirac, Schröder, Blair, Berlusconi, Benzoumi, Chrétien. Ora, prima di chiederci cosa hanno in comune le 300.000 persone del controvertice, io penso che sia opportuno chiedersi cosa hanno in comune gli otto del vertice. Sono tutti i rappresentanti del popolo democraticamente eletti. Da almeno il 10% degli aventi diritto. Prendi gli Stati Uniti d'America. Esportano democrazia in tutto il mondo, ma le elezioni democratiche per eleggere il loro presidente partecipa il 20% degli aventi diritto. Nel 2000 diventa presidente George W. Bush Junior. Grazie al ratto di poche migliaia di voti. Allora, se Bush presiede gli Stati Uniti con il 10% dei consensi, questi otto possono a buon diritto rappresentare il mondo intero col 10% dei voti della popolazione mondiale. Ma soprattutto possono farlo in quanto sono amministratori delegati dell'80% della ricchezza mondiale. Viviamo in una società capitalista e non è una novità. Dicono che l'abbiamo scelta, e forse è vero. È vero, se diamo per vero che non sappiamo bene cosa abbiamo scelto. La società capitalista vigente è transnazionale. Il liberismo capitalista favorisce l'internazionalismo dei capitali. Questo, grosso modo, vuol dire: io ho dei soldi, compro la materia prima dai poveri, la rivendo a quelli un pochino più ricchi e divento ricchissimo. I poveri non sono in condizione di comprendere né tantomeno di ostacolare il meccanismo. Quelli un pochino più ricchi tendono a farselo piacere perché si cullano nel sogno che il liberismo dia loro la libertà di diventare ricchi. I ricchi tengono sotto controllo l'ignoranza dei poveri, alimentano le speranze dei medi di diventare ricchi e prosperano. Questi pochi ricchi costituiscono una società internazionale di persone che gestiscono le risorse del pianeta e ne amministrano il potere. Non esiste una lista ufficiale di questi potenti e loro non hanno bisogno né di riunirsi tutti insieme a discutere linee di condotta né di fare riunioni più o meno segrete, perché sono già d'accordo. Si capiscono al volo. Determinano i loro rappresentanti nazionali e delegano a loro la tutela dei loro interessi e il difficile compito delle relazioni pubbliche. Far credere a tutti che il bene di questo clan sia il bene di tutti. Il 20 luglio del 2001 questi rappresentanti si chiamano Bush, Putin, Chirac, Schröder, Blair, Berlusconi, Benzoumi, Chrétien. Non hanno assolutamente niente di importante da decidere. Le decisioni, a loro avviso, importanti rischiano di essere così sgradevoli che è meglio farle avvenire lontano dai riflettori. Oppure delegarle ad organi appositi come WTO, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale. Il compito che devono svolgere è fare la pubblicità. Dimostrare che ciò che avviene sopra le nostre teste, al di là del nostro controllo, è per il nostro bene. Vogliono farsi fotografare mentre discutono di fame nel mondo, AIDS, inquinamento, riduzione del debito dei paesi poveri. Vogliono farsi vedere da tutto il mondo nell'atto di fare l'elemosina. Il maestro di cerimonia è Berlusconi Silvio, presidente del Consiglio. Consiglio Italiano. E allora? Quello che di pubblicità se ne intende. Investe tutto su due punti fondamentali. Uno, fare bella figura. Due, alzare il livello dello scontro in modo da poter mostrare i muscoli ai 7 partner e al popolo. E tosto inizia a impegnarsi nei due sensi. Divide Genova in 3 zone, gialla, rossa e verde. Quella centrale è la zona rossa, dove si terrà il vertice. Lì non può entrare nessuno senza il pass, che però viene rilasciato solo all'interno della zona rossa, e chi ci abita è meglio se se ne va. Mentre i negozi devono restare aperti, se no sembra una città fantasma, ma non venderanno niente, perché ci saranno solo premier, giornalisti e poliziotti. Fa chiudere i varchi della zona rossa con cordoni di cemento sormontati da reti alte 3-5 metri e sui tetti delle case sparpaglia i cicchini che proiettano strane ombre sulla strada. Copre le facciate delle case che non gli piacciono con rappresentazioni di case che invece gli piacciono, secondo un gusto neoclassico suo, personale. Fa trasferire dal carcere di Genova 600 o 700 detenuti ad altri carceri per avere a disposizione altrettanti posti letto. Fa lo stesso negli ospedali e si ordinano 200 sacchi di plastica per non farsi trovare impreparati di fronte ad altrettanti eventuali cadaveri. Nella zona rossa, limoni finti, grandi come cedri maturi, vengono attaccati col filo di nylon al posto dei limoni veri, che per un fatto di latitudine non sono ancora maturati. Genova viene presidiata da 18.000 poliziotti. All'aeroporto di Genova vengono disposte le batterie antimissile. Sulle colline circostanti i reparti della KFOR. Di ritorno dal Kosovo. Nel golfo di Genova, gli uomini rani. Poliziotti anfibi pronti a difendere i grandi dall'eventuale attacco di Godzilla. Berlusconi chiede alla cittadinanza di Genova di non stendere la biancheria fuori dai balconi per non dare un'immagine sciatta della città. Uno degli slogan della contestazione sarà «Fuori le mutande!». Molti genovesi aderiranno alla protesta, facendo i primi bucati rivoluzionari della nostra storia repubblicana. Viene chiuso lo spazio aereo sopra la città e la zona rossa viene anche schermata ai telefoni cellulari, perché i comandi a distanza per le bombe viaggiano sulla stessa frequenza. Berlusconi sceglie personalmente il menù e il set da scrittoio da regalare ai suoi ospiti. Questo popò di messa in scena costa 2.000 miliardi di vecchie lire. Berlusconi dichiara fieramente di aver trasformato Genova facendo buttare giù vecchi palazzi e innalzandone di nuovi. Pericu, il sindaco di Genova, replica: sì, ha fatto come il mago Zurlì. Parte la strategia della tensione, già molto popolare in Italia. Nei giorni precedenti al G8 vengono recapitati piccoli pacchi bomba. Al TG4 arriva una busta con due pallottole e una foto di Agnoletto. Il SISDE diffonde allarmi stravaganti che la stampa riporta in modo acritico. Si parla di attacchi con sacchetti di sangue infetto. Di maiale. Pitbull d'aizzare contro la forza. Attacchi con alianti, parapendii, kayak. Libero titola, ci sarà il morto. Ma va detto che già prima che il maghetto nostrano si buttasse a capofitto nell'organizzazione della kermesse, i segnali dei preparativi erano inquietanti. Già nel febbraio del 2001, nella caserma dei carabinieri di Gorizia, il loro comandante iniziò a istruire i suoi uomini. Spiegò agli ufficiali che i No Global erano gente violenta prima di scrupoli, che per fronteggiarli sarebbero stati autorizzati ad usare qualunque mezzo. E organizzò un'esercitazione. Gli allievi ufficiali avrebbero fatto la parte dei manifestanti e gli ufficiali la loro. L'esercitazione si concluse con più di 20 feriti, 3 dei quali con prognosi superiore ai 40 giorni. A fine marzo ci fu a Napoli un'altra prova generale di G8, questa volta con manifestanti veri. La repressione fu spietata. Se ne parlò poco allora. Se ne parlò molto dopo Genova. A Göteborg a giugno la polizia svedese sparò ad altezza uomo contro i manifestanti. Le televisioni di tutto il mondo mostrarono un contestatore sparato alla schiena cadere a terra durante la fuga. Il governo svedese si scusò dicendo che nella civilissima Svezia non c'erano mai stati scontri di piazza prima d'allora e i poliziotti non erano preparati. Non avevano in dotazione proiettili di gomma né altre spiritosaggini antisommossa. Sentendosi attaccati spararono. L'Italia invece ha una gloriosa tradizione di scontri di piazza, ma i proiettili di gomma, che comunque bene non fanno, non furono ugualmente distribuiti. Detto questo, tutto è pronto per il primo atto e per quelli che seguiranno. Primo atto, giovedì. Arrivano i No Global. Non attaccano dal mare! E non sfidano le batterie antimissili! La rappresentanza di Global, radunatasi a Genova, è un esercito di 200.000 persone, aderenti alle più famose organizzazioni terroristiche internazionali. Rete Lilliput Suore Anglicane. Verdi e ambientalisti, Medici Senza Frontiere. Amnesty International. Rifondazione Comunista, che non manca mai. Centri Sociali, Case Occupate. Cobas. Arci, Manitese. Campo Antiimperialista. E il Cub. Ignacio Ramonet, direttore del giornale eversivo Le Monde Diplomatique. Attac di Bernard Cassin e Susan George, l'associazione internazionale che si batte per un'economia più giusta. In particolare sostiene l'introduzione della Tobin Tax sulle transazioni internazionali di capitali. José Bovet, il contadino francese che manifesta contro le manipolazioni genetiche nel settore alimentare. Recentemente condannato per aver distrutto un campo di Gran Turco transgenico. Popcorn. Emergency, l'organizzazione di volontari guidati da Gino Strada, che rimpannunciano le vittime delle mine anti-uomo e sostengono la campagna antimine, che piace abbastanza all'ONU e per niente a Bush. E poi ci sono un sacco di persone che non fanno parte di nessuna associazione e che magari non sanno neanche quali sono gli obiettivi del movimento, ammesso che il movimento abbia obiettivi comuni. Sì. C'è un sacco di gente che non si sente rappresentata dagli otto grandi. Magari neanche dai DS, che è andata a Genova a vedere cos'è questo movimento. Se si può partecipare, se c'è posto per tutti. Le associazioni, più di 700 gruppi, hanno storie diverse e più o meno antiche. Il movimento che le raggruppa ha una quindicina d'anni. Si manifesta a Seattle e passa da Davos. Porto Alegre. Praga. Nizza. Napoli. Göteborg. Nel complesso, anarchico e disorganizzato finché vuoi, questo è il più grande movimento di critica all'indifendibile sistema capitalista. L'unico da dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Un grande agglomerato di gruppi e idee al quale può attaccarsi chiunque veda una malattia al potere nell'attuale ordine del mondo. Le associazioni e i manifestanti sono sempre di più perché nella loro diversità hanno trovato varie cose che li accomunano. La diversità, per esempio. Il non sentirsi rappresentati da quegli otto. Voi otto, noi 6 miliardi! Credere che un mondo diverso è possibile. La consapevolezza che ci sono un po' di cose che se non le difendiamo noi, non le difendono certo quegli otto lì. L'ambiente. Le differenze culturali. I diritti umani. Il trattato di Kyoto. E quello sullo sminamento. Ci sono dei problemi come la fame nel mondo, l'AIDS, che il presidente del Consiglio italiano di allora chiama inconveniente. E promette che si parlerà anche di quelli. Ma nell'ordine del giorno dei lavori del G8, lo scudo spaziale per difendersi dall'attacco dei marziani è più importante. Il movimento è antiglobalizzazione. È difficile definire esattamente cos'è la globalizzazione. E l'etichetta stessa di no global è una definizione più mediatica che condivisa dai manifestanti, che in realtà sono i primi a fare uso della globalizzazione. Beh, il movimento si propone come mondiale e usa internet come principale strumento di comunicazione. Il movimento prende di mira quelli che sono gli aspetti deteriori della globalizzazione, quelli che la fanno assomigliare di più al colonialismo. Uno dei più evidenti è che il mercato globale si basa sullo sfruttamento da parte di un primo mondo delle risorse energetiche, ambientali, umane del terzo mondo. I governi occidentali si affannano in una corsa a chi c'ha il PIL più grosso e vedono sempre di più la politica come una gara di amministrazione economica secondo le regole del capitalismo selvaggio imposte dagli Stati Uniti d'America, che sono i primi a non rispettarle perché hanno una forza militare sufficiente a preservarli da ogni tipo di critica. Parliamo di PIL, di sviluppo, ci si spaventa perché la vendita delle automobili è in calo e quasi 3 miliardi di persone vivono con meno di $2 al giorno. 1 miliardo e 200 milioni di esseri umani non hanno accesso all'acqua. Il 3% della spesa per lo scudo spaziale basterebbe a risolvere questo inconveniente. Con la stessa decenza con la quale i ciechi sono diventati non vedenti e i sordi sono diventati non udenti, i paesi sottosviluppati sono diventati in via di sviluppo. Ecco, questi paesi che si stanno sviluppando non hanno l'acqua e si sono venduti pure l'aria. Un protocollo sull'ambiente precedente a quello di Kyoto stabiliva un limite per le emissioni di ossido di carbonio. Grosso modo il limite era fissato in base all'estensione del paese che produceva ossido di carbonio e alla sua vegetazione. Se tu produci un litro di ossigeno, puoi produrre qualche grammo di ossido di carbonio. Gli Stati Uniti hanno firmato il protocollo, si sono accorti che producevano schifezze in eccedenza rispetto al protocollo e hanno cominciato a pagare in dollari le quote ossigeno dei paesi in via di sviluppo. Che non essendo industrializzati avevano ossigeno in eccedenza. Questi paesi si sono ritrovati con una manciata di dollari in mano e se ora volessero mettere su una fabbrichetta non verrebbero autorizzati. Perché si sono venduti l'aria agli Stati Uniti. La politica internazionale degli otto grandi G è una politica economica di sfruttamento. Mangiano trenette al pesto in nome di questo. Il bimbo che salta su una mina antiuomo è un inconveniente. La produzione di mine è una risorsa. Il movimento antiglobalizzazione propone un'altra politica. Per questo esiste. Per questo organizza una grande manifestazione. Per parlare di quell'altro mondo diverso che è possibile. Per esprimere un dissenso. Per contarci, per sentirsi meno soli e meno matti. Per cantare e per ballare. Per aggregarsi in nome di uno slogan il più generico possibile, in modo che si veda che oltre agli otto grandi c'è un sacco di altra gente, spesso con delle idee anche migliori. C'è chi lo vuole dimostrare con la presenza in piazza. Chi con i banchetti, chi con gli slogan, chi con le danze e chi prendendo delle botte. Voi portate la mazza, io un mito di asco e vediamo chi vince. Articolo 16 della Costituzione italiana recita: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale, per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Questo articolo, per ragioni pubblicitarie, viene di fatto sospeso. L'articolo successivo recita: i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. E anche questo articolo viene di fatto sospeso. Il trattato di Schengen, invece, viene ufficialmente sospeso. Giovedì va tutto bene. Si canta e si balla. C'è il corteo dei migranti. Ci sono i concerti. I poliziotti si infiltrano, passeggiano, osservano. Altri stanno in disparte. Uno di loro fa capolino da un carro armato e spiega a Concita De Gregorio della Repubblica che la festa è un diversivo. Attaccheranno domani. Hanno pistole, sangue infetto, biglie all'acido. Il poliziotto è stato addestrato bene sulle tecniche di attacco dei No Global. L'addestramento è stato fatto a Roma, da funzionari della polizia di Los Angeles. Piove. Secondo atto. Venerdì. Il giorno dopo, come previsto, attaccarono. Sì, il giorno dopo, come previsto, la polizia attaccò i manifestanti nervi e cominciarono a contarsi i primi feriti. C'è il sole, non piove più. Venerdì è la giornata delle piazze tematiche. Gruppi diversi si danno appuntamento nelle piazze di Genova attorno alla zona rossa, alla quale vogliono avvicinarsi e simbolicamente violare. Rete Lilliput, mercato Eco, ambientalisti, da piazza Manì per via Sarotti fino a piazza Corbetti. Da piazzale Kennedy verso Carignano, ATTAC, Rifondazione Sinistra Giovanile, Unione degli Studenti. Antiimperialisti e FAI a San Pier d'Arena. I COBAS sono in piazza Paolo Danovi, lungo Corso Buenos Aires. Sono i primi in quella giornata ad avere ospiti. Alle 9 del mattino sono lì con loro dei personaggi vestiti di nero, incappucciati, che iniziano a smontare la piazza per ricavarne San Pietrini e cartelli stradali. I COBAS cercano di allontanarli. Questa è la nostra piazza. La nostra è una piazza di contenuti politici, non di scontri, e ci guadagnano solo un paio di sberle. La polizia faceva cordone all'inizio di Corso Buenos Aires, lì, a Corte Lambruschini, insomma, erano 300 metri da piazza Paolo Danovi e le davano alle spalle. Non si capisce cosa presidiasse, forse i contari, che misteriosamente nella notte erano comparsi in piazza Brignole a costituire imponenti barricate. Questi signori che infastidivano i COBAS si chiamano Black Bloc. I Black Bloc saranno gli unici ad unire istituzioni, movimento e opinione pubblica in un unanime atteggiamento di condanna nei confronti loro e del loro operato. Perché? Sono per lo più anarchici, e questo è già partire col piede sbagliato. È dai tempi di Bakunin che gli anarchici sono il capro espiatorio di qualunque cosa. Da Sacco Vanzetti a piazza Fontana danno per scontata l'arroganza del potere col quale non dialogano. Provocano le persone, colpendole in quanto hanno di più caro la tanto desiderata proprietà. Il Black Bloc nasce negli Stati Uniti e si diffonde nel mondo globale. Sono gruppi di singoli che si ritrovano nelle manifestazioni e praticano la guerriglia urbana. Fanno da servizio d'ordine contro la repressione della polizia. Alzano il livello dello scontro per aumentare la visibilità e il profilo della protesta. Perché non finisca come USA in... Abbiamo manifestato, è stato bello! Bravo, ora tornatevene a casa! Sì, certo. Mettono a ferro e fuoco i simboli del capitale. Banche, supermercati, McDonald's e macchine costose. Si vestono di nero e operano a volto coperto. Suonano tamburi e hanno un aspetto minaccioso. Usano armi improprie, travi sottratte ai ponteggi, sassi sottratti alle strade e benzina sottratta alle moto. Prima di Genova, del Black Bloc si sapeva poco e si sa ancora poco. La polizia diceva di non saperne proprio niente. La provincia di Genova diceva di saperne qualcosa in più e di aver allertato la polizia nei giorni precedenti, ma la polizia non se ne ricorda. Non sono mai stati fermati dalla polizia. Quando un gruppo di Black Bloc arriva davanti al carcere di Marassi, trova numerose camionette dei carabinieri al presidio del carcere. Ma di fronte al suo arrivo, i carabinieri lasciano il campo al Black Bloc che attacca il carcere indisturbato. Evidentemente il Black Bloc è molto utile a chi voglia alzare il livello dello scontro. L'attività del Black Bloc sarà presa a pretesto dalle forze di polizia per caricare le manifestazioni. Il Black Bloc segue un suo percorso attraverso Genova e le sue piazze tematiche. La polizia segue da lontano la scia di fumo e carica quel che incontra. I pacifisti di Piazza Manin saranno i primi stupefatti di questa giornata. Vittorio Agnoletto è il rappresentante del Genova Social Forum, l'organizzazione che ha coordinato il raduno dei No Global a Genova, e durante gli scontri del giorno dopo commetterà l'imprudenza tattica di dichiarare alle forze dell'ordine costituito di aver visto i Black Bloc uscire dalle macchine della polizia e di conservarne prove fotografiche. Evidentemente è molto facile infiltrarsi in un gruppo di singoli non organizzati. Il Black Bloc non è un partito, non è un movimento, non è un'associazione. È una strategia di lotta. Sono per lo più anarchici, ma possono partecipare tutti. Poliziotti. Servizi. Gruppi di estrema destra. Ragazzi che si aggregano ai più intraprendenti. E a Genova i Black Bloc erano molto diversi da come si erano presentati alle altre manifestazioni. Sono riusciti ad interferire praticamente con tutte le piazze tematiche che non avevano un servizio d'ordine interno. Di solito sono prevalentemente inglesi e austriaci e qui a Genova parlano quasi tutti romanesco. Hanno sempre proceduto a piccoli gruppi e qui non sono mai meno di 30. Intanto che qualche acuto osservatore inizia a fare queste considerazioni, il viatore medio inizia l'inferno. Sono quasi le 3 del pomeriggio. Carabinieri stanno caricando il corteo dei disobbedienti, tra cui le tute bianche, lungo il percorso concordato con la questura che aveva autorizzato il corteo fino a Piazza delle Americhe. Brignole. Le tute bianche vanno in manifestazione protette da armature rudimentali di cartone e gomma piuma, precedute da una testuggine che muove davanti una parete di plastica. Scendono giù da Corso Europa, Corso Castaldi e si immettono in via Tolemaide. Questo è un percorso che nessuno stratega con un minimo di esperienza di scontri di piazza accetterebbe mai se volesse sinceramente evitare di prendersi un sacco di mazzate. Via Tolemaide è leggermente in discesa. I manifestanti hanno a destra il terrapieno della ferrovia che c'è sempre stato e a sinistra dei vecchi palazzi che sono lì dall'Ottocento. Di fronte un cordone di carabinieri che invece è una sorpresa. Le aveva chiamati la polizia perché attraversassero in fretta via Tolemaide per andare a fermare il Black Bloc a Marassi. Arrivati all'incrocio con Corso Torino, i carabinieri del battaglione Lombardia fermano i mezzi. Scendono. Caricano i giornalisti che erano già in via Tolemaide e si apprestano a fronteggiare i disobbedienti. I carabinieri bloccano la testa del corteo 500 metri prima di Piazza delle Americhe. Cominciano a sparare i lacrimogeni. Il corteo non si disperde e parte la prima carica dei carabinieri. Dopo un po', la testuggine di plastica delle tute bianche cede. Il corteo non può arretrare perché è molto numeroso. La coda è ancora in corso da Castaldi, ignara di quello che sta succedendo in via Tolemaide. E non ci sono vie di fuga laterali per via di quel terrapieno, dei vecchi palazzi. Quelli abbastanza lontani da non essere accecati dai lacrimogeni e dallo spavento si chiedono come mai i carabinieri abbiano deciso di attaccare il corteo. Perché in quel punto, non essendoci via di fuga laterale, è abbastanza improbabile che il corteo si disperda da solo senza sfidare la contraerea. Dunque, l'azione dei carabinieri è da imputarsi o a sbadataggine o a una volontà precisa di provocare una reazione violenta da parte dei manifestanti in trappola. Dopo un po' questa reazione arriva. Cominciano le sassaiole e le barricate. I carabinieri ogni tanto arretrano, ogni tanto li attaccano. I disobbedienti non sono armati. Per tutta la mattina i carlini giravano con i megafoni. Il nostro è un corteo pacifico. Non raccogliete niente da terra. Non portate bastoni, sassi. Noi siamo quelli che le vogliono prendere, non dare. Infatti i loro costumi di scena si rivelano assolutamente inadatti di fronte alle cariche con i mezzi blindati. Ai carabinieri si aggiunge la polizia. Cercano di respingere il corteo con lanci di lacrimogeni. Cariche! La polizia usa gli idranti, sparano acqua urticante. I manifestanti si sfibrano, arretrano. Giocano alla corrida con le camionette. Le camionette dei carabinieri giocano agli autoscontri. Un blindato della polizia si lancia di proposito contro una macchina rovesciata. Così, per fare casino. Per fare vedere che è blindato. Una camionetta dei carabinieri si ferma e non parte più. L'autista si dà la fuga. Quando gli altri carabinieri se ne avvedono, lo seguono. La camionetta viene data alle fiamme. Dopo 2 ore e mezza di scontri, il battaglione Sicilia, composto da 50 di carabinieri, decide di attaccare lateralmente il corteo, passando per via Caffa. I manifestanti reagiscono. I carabinieri fuggono, lasciandosi dietro 2 Land Rover Defender. I manifestanti li inseguono. I Defender sbagliano manovra. Uno si disimpegna. Un altro si ferma contro un bidone della spazzatura. Un ragazzino si avvicina al Defender con un estintore scarico in mano. Un carabiniere gli spara 2 colpi alla testa. Carlo Giuliani muore in piazza Alimonda all'età di 23 anni. Mario Placanica, carabiniere di leva, diventa assassino in piazza Alimonda all'età di 20 anni. Un poliziotto incomincia a inseguire un manifestante urlando a squarciagola. L'hai ammazzato tu, col tuo sasso, l'avete ammazzato voi! Mentre la macchia di sangue si allarga ancora sull'asfalto, un giornalista solleva da lì un bossolo di pistola. La polizia riconquista la piazza e fa quadrato. Gianfranco Fini, leader di Alleanza Nazionale, un partito post-fascista di governo, dichiara immediatamente che il carabiniere è agito per legittima difesa, con un tempismo e una lungimiranza straordinari rispetto alla lentezza della magistratura, che ha impiegato 2 anni per arrivare alle stesse discutibili conclusioni. Cominciano a girare le voci più diverse su chi è il morto. Uno straniero. Un bancabestia. Un black bloc. Un tossico. La notizia arriva all'interno della zona rossa, a Versailles. Un sottosegretario del governo raggiunge Berlusconi con queste parole. Presidente, c'è il morto. Non un morto, il morto, quello che si aspettava. La sera Bush sorride e dichiara Genoa is very nice. Gli chiedono se ha saputo del morto. Mette su la faccia triste e sentenzia Oh yes, it's tragic. Il morto si chiama Carlo Giuliani, nato a Roma, residente a Genova, ha 23 anni. Vive con una ragazza in una casa vicino a quella dei genitori e quel giorno voleva andare al mare, ma all'ultimo momento ha deciso di andare in manifestazione con gli amici. Perché ci interessa sapere cosa è successo in realtà in piazza di Monda? Perché non ci sta bene che tra tanta gente andate a Genova a manifestare pacificamente? Magari c'era anche qualche violento, in un crescendo di panico, uno di loro è rimasto ucciso da un eccesso di legittima difesa. Plausibile? E ci starebbe anche bene. Se non sospettassimo fortemente che non è la verità. Non ci sta bene che un pazzo fanatico abbia ucciso Kennedy. Non ci sta bene che l'anarchico Pinelli sia morto di un malore attivo. Non ci stanno bene le bugie di Stato. Quindi non ci sta bene che Carlo sia stato ucciso da un sasso lanciato dai manifestanti, che fosse un black bloc. E non ci sta bene neanche quello che continuano a raccontarci. Nella famosa foto di Martinez, quella apparsa su tutti i giornali del giorno dopo, si vede chiaramente l'incredibile Hulk, 1,65 m, che brandisce un estintore contro il Defender accerchiato. Poi lo sparo, eccetera, eccetera. Legittima difesa. 5 giorni dopo salta fuori la stessa foto scattata di profilo, invece che da dietro. Carlo Giuliani è a 4 metri dal Defender. 4 metri sono da qui. A lì. Dalle posizioni delle altre persone presenti nella piazza, confrontate con le altre foto e con il filmato in cui si vede lo sparo, quello è il momento in cui chi ha sparato ha deciso di farlo. Legittima difesa. Da un'altra sequenza fotografica si vede che la pistola è puntata molto prima che Carlo avanzi minaccioso. È puntata contro un altro ragazzo. Questo la vede e scappa. La pistola rimane puntata. Carlo in quel momento è fuori tiro. Raccoglie l'estintore. Forse ha visto la pistola. Forse vuole impedire che spari. Partono 2 colpi. Uno colpisce Carlo sullo zigomo sinistro. L'altro il muro di una chiesa. Carlo è a terra. Il Land Rover carabinieri che si pretendeva incastrato, in 5 secondi mette in moto, fa la retro, calpesta una volta il corpo di Carlo, mette la prima, lo ricalpesta e si allontana. Un diesel. Cavataio, l'autista del Land Rover, interrogato. Gli chiedono se ha sentito il corpo di Carlo mentre faceva manovra. Risponde. Pensavo fosse spazzatura. Gli chiedono se non ha sentito gli spari. Risponde che ha sentito solo le urla, non ha sentito gli spari. Questa La riproduzione fedele di una beretta Parabellum un calibro 9, la pistola in dotazione all'arma dei carabinieri. Urlate tutti, per favore! Ah. Io non ho sentito niente. Non so, degli spari? No, non mi è parso. Mario Placanica, interrogato. Non vedevo niente per il sangue e per i lacrimogeni, sentivo solo i sassi che venivano lanciati contro di noi. Ho cercato di sparare in aria. Non nomina né Carlo né l'estintore. Legittima difesa. Sempre il Placanica, interrogato. Ricordo di aver messo la sicura alla veletta di ordinanza e di aver messo il colpo in canna. Poi, inavvertitamente, devo aver tolto la sicura. Ops. E inavvertitamente la mano mi si è contratta. Due volte. Due colpi. Ma stai attento. Legittima difesa. Il Placanica era ferito. Aveva il sangue che gli colava sugli occhi in Piazza Limonda. Erano le 17:27. Arriva in ospedale dopo le 20 con la ferita che zampilla come una fontana. Perché non è morto dissanguato? Forse perché la ferita non se l'è fatta in Piazza Limonda. E come se l'è fatta? Mentre imparava son di botte come sono andate veramente le cose in Piazza Limonda. Mentre gli procuravano l'offesa che legittimasse la difesa. Dove è stato in quelle due ore e mezza? I carabinieri dicono che hanno trovato traffico. Causa manifestazione. Chi c'era su Land Rover? Il Placanica ha sempre dichiarato di essersi rifugiato su quella macchina perché intossicato dal gas lacrimogeno CS. Placanica era granatiere, cioè addetto al lancio di CS. Il CS, come sostengono Placanica e i sindacati di polizia, fa male. Fa male a chi lo dà e a chi lo riceve. E Placanica stava male. Si rifugia su Land Rover dove c'è solo l'autista. L'equipaggio del Defender non si sa dov'è. L'ufficiale manca l'appello. Poi sale un altro collega che stava male. Placanica non lo conosce. Cavataio non lo conosce. Qualche tempo dopo i carabinieri fanno sapere che si trattava di un certo Raffone, un giovane carabiniere diventato da poco effettivo. Allora Placanica e Cavataio si ricordano. Ah, sì, era Raffone, vero. Torniamo lì. Il corpo di Carlo è a terra, il Land Rover si allontana. Alcuni ragazzi cercano di soccorrere Giuliani. Gli alzano le gambe. Cercano inutilmente di tamponare il foro d'entrata della pallottola. Urlano no, no, no. Il cordone di polizia che ha assistito all'assedio di Defender e all'assassinio senza mai intervenire, dopo un minuto e mezzo, si muove. Riconquista la piazza. La polizia fa quadrato attorno al corpo di Carlo. Arrivano anche i carabinieri. Un fotografo viene malmenato. Gli rompono le macchine fotografiche e distruggono i rullini. Prima di essere spedito in ospedale, fa in tempo a vedere la polizia prendere a calci in testa il corpo di Carlo. Solo dopo 15 minuti il corpo di Carlo viene visitato da un soccorritore del Genoa Social Forum. Il cuore batte ancora. Gli tolgono il passamontagne, blu. Ha una ferita molto seria alla testa. Impossibile che si fosse procurato quella ferita prima dello sparo. Vicino alla testa di Carlo c'è un grosso sasso insanguinato che prima non c'era. In quei 15 minuti un poliziotto gli ha sollevato il passamontagne, ha preso il sasso e ha colpito la fronte di Carlo 3 volte. Le prime 2 piano, la terza con energia. 1, 2 e 3. Il vice questore aggiunto Adriano Lauro. Bastardo, tu l'hai ucciso col tuo sasso. Carlo Giuliani muore in Piazza Limonda a seguito delle ferite riportate dallo schiacciamento di un Land Rover Defender dei carabinieri. Uno sparo e una sassata in testa. Legittima difesa. Bel lavoro. Verso sera una mano armata di pennarello cancella la scritta Piazza Gaetano Limonda e la sostituisce con Piazza Carlo Giuliani, ragazzo. Carlo Giuliani era un ragazzo. Non era né Gramsci né un teppista, era un ragazzo. E quel giorno è morto. È uscito di casa col costume sotto i pantaloni della tuta, perché un bagno ci può scappare sempre. È andato in Piazza Manini e lì ha visto poliziotti e carabinieri massacrare di manganellate quelli della rete Lilliput. Pacifisti, cattolici, signori di una certa età, giornalisti. È andato in Via Tolemaide e ha trovato la guerra. In Via Tolemaide è volto scoperto e si guarda intorno, studiando cosa sta succedendo. Si mette il passamontagna blu. In Piazza Limonda c'è un Defender, di quelli che fino a poco fa lanciavano lacrimogeni, che si è perso durante una ritirata, nel corso di quell'inutile lotta per il territorio che si stava ingaggiando. Il Defender viene assalito dai manifestanti. Non sappiamo se Carlo prende l'estintore per partecipare a una guerra, che per quello che ne sa lui potrebbe anche essere un nuovo 25 aprile, o se per fermare un uomo come lui incappucciato che sta per sparare. Muore. Chissà se Carlo sa perché è morto. Chissà. Se noi sapremo mai chi l'ha ucciso. E perché? Tanta Italia pensa che fosse un teppista. Che se l'è cercata. Che se quel giorno stava a casa, certo non gli succedeva niente. Che il carabiniere ha fatto bene a sparare. Finché è così, le istituzioni sono tranquille. E finché sono tranquille, i carabinieri sono protetti. E finché saranno protetti, non avranno motivo di dirci la verità. E noi non la sapremo. Il senso del tragico non è ancora così schiacciante. È morto un ragazzo, hai sentito? Assassini. Mai visto come caricavano? Nessuno li ha attaccati. Non si era mai vista una roba del genere. Per tutta la sera le chiacchiere vengono accompagnate dal rumore degli elicotteri che sorvolano la città. Agnoletto dichiara: con un costo altissimo abbiamo vinto. Il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, si rivolge ai dimostranti perché cessi subito questa cieca violenza. Il governo chiede ai manifestanti di non manifestare. I manifestanti chiedono ai grandi di chiudere il vertice. Blair ribadisce quello che disse a Göteborg. What we are discussing here is vitally important. Quello che stiamo discutendo è di importanza vitale. E Bush aggiunge che nessuno ha autorizzato questi manifestanti a rappresentare i poveri del mondo. Li rappresenta lui? Un petroliere americano? Lasciamo perdere. Insomma, sabato il vertice continua. E in piazza ci sono 300.000 manifestanti. È un fiume. Il fiume scende da Corso Italia. Fa caldo. C'è rabbia, tristezza, voglia di rivincita. Questa volta siamo un fiume, siamo tantissimi. Il Black Bloc continua a scassare quella sul lungomare. La polizia comincia a sparare lacrimogeni contro il corteo. Giovanna Boteri del TG3 chiede perché. E non lo vede che avanzano minacciosi? Noi spariamo lacrimogeni per farli piangere un pochino, per tenerli calmi. Il gas CS è un'arma chimica bandita dalla Convenzione di Ginevra. Provoca dermatiti, bruciore agli occhi e gravi crisi respiratorie. I suoi effetti sul sistema respiratorio possono essere permanenti. Tra le conseguenze dell'esposizione al CS non risultano effetti calmanti. Nelle giornate di venerdì e sabato, a Genova se ne sparavano in media 80 all'ora. La polizia spezza il corteo in due tronconi all'altezza di Corso Torino. Sparano lacrimogeni dagli elicotteri. Caricano il corteo con i mezzi blindati. 300.000 persone cercano di scappare. La polizia le insegue. Per le strade, nei portoni, sulle spiagge, in mezzo ai bagnanti. I manifestanti quando possono restano compatti. Quando non ce la fanno scappano. Quando scappano vengono inseguiti. Quando rimangono soli vengono raggiunti. Buttati a terra e presi a manganellate e a calci da gruppi di 5, 6, 10 poliziotti. I rastrellamenti e i pestaggi ad opera di polizia e guardia di finanza avvengono anche molto lontani dal corteo. E continueranno fino a notte. Sono oggetto di pestaggi manifestanti di tutte le età. Donne, uomini, anziani. Giornalisti, medici, fotografi. 200 feriti. Che hanno paura di andare al pronto soccorso, perché lì la polizia li arresterebbe. Giulietto Chiesa scrisse: e penso a quante altre sorprese sgradevoli ci saranno nei prossimi mesi per quei farabutti che disonorano la divisa che indossano dopo averla scambiata per un lasciapassare, per l'impunità e l'arbitrio. Gente cui non è stato insegnato che è causa senza onore quella di picchiare gente indifesa. Perlomeno mi auguro che qualcuno sappia e voglia riflettere e agire quando altri materiali emergeranno aiutandoci a stabilire la verità, poiché è evidente che tutta questa storia ci ha messo di fronte a nuovi interrogativi. Com'è costituita la polizia italiana? Chi la comanda? Chi forma i quadri? Chi impartisce lezioni di vita, oltre che lezioni di tecnica? Gianfranco Fini è a Genova, a Forte San Giuliano, centrale operativa di Carabinieri, è andato ad incoraggiare e a congratularsi con i suoi uomini per il lavoro che stanno svolgendo. Alla domanda cosa ci faceva lì, ha risposto che era suo compito istituzionale. Quando gli è stato fatto notare che quella visitina lì proprio non faceva parte dei suoi compiti istituzionali, ha cambiato dichiarazione. Ero passato a fare un saluto. Un saluto romano. Notte. Thank you. vertice si è chiuso e i giottoni sono soddisfatti del loro lavoro. Partiranno l'indomani. Le manifestazioni si sono concluse e anche i manifestanti partiranno l'indomani. Sembra il momento di spegnere le telecamere, contare i feriti, fare il punto della situazione. Ma non lo è ancora. La scuola Armando Diaz è stata gentilmente imprestata al Genoa Social Forum, che ne ha fatto il suo quartier generale. Alle 23 ci sono lì un po' di computer spenti e 96 manifestanti che dormono. Arrivano a fare spenti, urlano due volte polizia, poi un blindato sfonda il cancello di circa 270 tra carabinieri, poliziotti e altri reparti in assetto antisommossa a fare irruzione nella scuola. L'elicottero sorvola. In strada una folla di giornalisti, medici, avvocati, parlamentari chiede di poter entrare a documentare, controllare, medicare. Non si può! Sono cose fatte! In una carica di poliziotti, Agnoletto chiede di entrare. Sono il responsabile di questa struttura! Un poliziotto in borghese gli urla. Allora, dove sono le vostre foto? Le foto erano alla scuola Pertini, dall'altro lato della strada, dove il Genoa Social Forum aveva il suo media center. Subito prima dell'irruzione alla Diaz, la polizia è passata di lì. Hanno sfasciato tutto e sequestrato il resto. Dall'interno della Diaz, due ore di urla ininterrotte. Dalle finestre si vedono i poliziotti correre di qua e di là e menare. Escono 30 barelle. Teste spaccate. Costole infrante. Milze perforate. Denti perduti per sempre. Sono entrati in base all'articolo 41. Perquisizione per sospetta detenzione di armi. Non è necessario il mandato. Ma neanche il manganello. Non si è mai visto che la cenere faccia perquisizioni. Li hanno sdraiati per terra e massacrati. I capi urlavano attenti a non ucciderli. Qualcuno ha cercato di scappare. Non ce l'ha fatta. 60 feriti, 2 in coma, 93 arresti. La polizia se ne va. Abbiamo finito. Grazie. Puoi entrare. C'è sangue dovunque. Denti, saccheggio, pozze, strisce di sangue sui muri, sui termosifoni, sulle porte, dappertutto. Hanno lasciato dentro due ragazze, sono in un angolo, abbracciate. Una non riesce a piangere, fatica a respirare. L'altra a chiedere, why? Why? Why? Non lo so. Le prime agenzie di stampa il giorno dopo annunciano. Perquisizione alla Diaz. Ferito un poliziotto. Più tardi si correggono. Il poliziotto in realtà non è ferito. Sta bene. La coltellata che il manifestante sferrò allo sbirro è sempre stata citata dalle forze dell'ordine come motivazione per il massacro. I manifestanti opponevano resistenza violenta a pubblici ufficiali. L'accoltellatore è riuscito a sfuggire e a confondersi fra gli altri. Non è mai stato riconosciuto. Era buio. Era buio fuori. All'interno c'era la luce, così appare dai filmati. Un anno dopo, la perizia dei RIS hanno confermato che il taglio sul giubbotto e quello sulla giacca della divisa non coincidono. Gli indumenti devono essere stati torturati separatamente. Chiedo a un carabiniere di Genova cosa ne pensa. Quelle bellinate lì, o le fai bene o non le fai. Poi è inutile che te la prendi con i RIS. Siamo capiti? Non dico altro. Non dici altro. Domenica mattina, in conferenza stampa, la polizia mostra quello che ha sequestrato. Bastoni di legno, 5. Mazzuole da cantiere, 2. Picconi, 1. Tubi d'alluminio, 7. Badili, 1. Martelli, 2. Si presume che questi oggetti fossero nel cantiere retrostante la Diaz, ma la polizia non dice dove ha preso questi oggetti. Poi, tute nere in perfetto ordine, mai usate, 20. Molotov, 2. Mazzi di chiavi, 1. Bracciali con borchie, 4. Magliette, alcune. Macchine fotografiche, 15. Telefoni cellulari, 3. Thermos, 1. Libri, 1. Cartine di Genova, 2. Pennarelli, 3. Occhiali da piscina, 17. Coltelli, 2. Uno da cucina e uno da campeggio. Bombolette spray, 10. Parrucche, 1. Pettorina da giornalista, 1. Gocce omeopatiche, una bottiglietta. Maschere antigas, 7. Lozione dopo sole, 1. Parastinchi, 6 paia. Passamontagna, vari colori, 9. Una giornalista della BBC deve fare due domande. E per caso avete trovato anche armi? Tutto quello che abbiamo trovato è qui davanti a voi. E seconda domanda, come mai avete sequestrato un termos? Non sono autorizzato a rispondere. Nel giugno del 2002 Un poliziotto riconosce le Molotov trovate alla Diaz. Sono quelle che ho trovato in Corso Italia e consegnato ai miei superiori. Non so cosa ci facevano poi alla Diaz. Comunque, il giudice per le indagini preliminari ordina che 90 dei 93 arrestati siano rimessi in libertà. Ma sono in ospedale. Ma non è finita. Quarto atto. Domenica. La caserma della polizia di Bolzaneto è poco fuori Genova, sulle colline. Lì sono stati portati gli arrestati della Diaz. Lì, dall'inizio del G8, sono transitati 300 arrestati, prima di essere rimessi in libertà o trasferiti a carceri vicini. Lì non ci sono più le telecamere di venerdì. Non ci sono più i testimoni che c'erano fuori dalla Diaz. Lì non possiamo vedere. E non possiamo ricostruire. Abbiamo solo le testimonianze di chi c'era. Lì, durante il fermo, la polizia cantava e faceva cantare agli arrestati. 1, 2, 3, viva Pinochet, 4, 5, 6, morte agli ebrei, 7, 8, 9, il negretto non commuove. Le testimonianze di chi è stato a Bolzaneto in effetti ricordano molto il Cile di Pinochet. Ci hanno picchiato selvaggiamente per 16 ore. Mi spendevano le sigarette sulle mani. Ci hanno costretti a stare in piedi, faccia contro il muro, braccia alzate per ore. Molti di noi avevano gli arti fratturati. Mi picchiavano se non cantavo faccetta nera. Avevo i denti davanti sfracellati, il mento e la mandibola ridevano. Mi hanno strappato la carta d'identità dicendo: vedi, tu qui non sei nessuno, non hai alcun diritto. Il medico mi ha strappato con violenza piercing dai capezzoli, dal naso. Ci dicevano che ne erano morti 3 dei loro e 1 dei nostri, che avrebbero pareggiato i conti. Mi hanno minacciato di morte. Mi hanno minacciato di morte. Mi hanno privato del sonno. Mi hanno strappato i capelli, pisciato addosso. Calci ai testicoli. Minacciavano che ci avrebbero stuprate con i manganelli. Non ho potuto cambiarmi in assorbente. Mi hanno bruciato i peli del petto con un accendino. Mi hanno fatto firmare dei fogli in bianco per farmi uscire. Mi hanno spruzzato in faccia del gas lacrimogeno. Ci facevano gridare viva il Duce. Why? Why? Si è parlato molto di vedere anche le ragioni dei poliziotti. Non solo dei manifestanti. Le ragioni del manganello che picchia e non solo della testa che si spacca. È stato tirato in ballo Pasolini, che negli anni delle grandi contestazioni diceva che i veri proletari erano i poliziotti, spesso poveri ragazzi del sud che non avevano scelta. Gli studenti che si potevano permettere di manifestare erano figli di papà e non gli erano simpatici. Forse è possibile applicare questo ragionamento al carabiniere assassino ventenne che in ospedale, in stato di shock una volta raggiunto dalla notizia della morte di Carlo, ha chiesto: potrò ancora fare il carabiniere? Più difficile applicarlo alla mano che armò la sua. Più difficile applicarlo ai massacratori della Diaz. A chi fa cantare 1, 2, 3 viva Pinochet. A chi ti sputa in bocca e ti pisce addosso. Le ragioni dei carabinieri, le ragioni dei poliziotti, la ragione di Stato. Le ascolto quelle ragioni. Le ragioni di chi pensa che di fronte al reato di devastazione l'omicidio sia legittimo. Le ragioni di chi pensa che chi rompe una vetrina e chi rompe una testa esercitino la stessa violenza. Le ragioni di chi pensa che se 3 miliardi di persone vivono con meno di $2 al giorno, questa è una loro sfiga, non una nostra colpa. Il padre di Carlo, poco prima che Scaiola si dimettesse per altre squallide ragioni, gli chiese di riconoscere le responsabilità, le colpe dello Stato, se non per la morte di suo figlio, perlomeno per la Diaz, per Bolzaneto, per i pestaggi nelle strade. Scaiola rispose che di fronte alla violenza lo Stato non ha colpe, deve tutelare l'ordine, che se qualche singolo tra le forze dell'ordine ha abusato del suo potere per commettere violenze, questa è responsabilità del singolo, non dello Stato. La Costituzione italiana, sulla quale Scaiola 2 mesi prima di Genova aveva giurato, dice all'articolo 28: i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Ma lo Stato non ha colpa. E la Costituzione vale meno di un talk show. Ed è quindi legittimo che le forze dell'ordine a difesa delle vetrine dei loro padri spacchino le teste dei loro fratelli. Perché a loro è garantita l'impunità. Perché se la magistratura indaga su di loro per sequestro di persona, violenze, minacce sessuali, loro protestano. Lo Stato li difende e li promuove. Cito anch'io Pasolini, quando diceva: io so chi sono i mandanti delle stragi, lo so, ma non ho le prove. Io lo so chi sono i mandanti delle stragi. Io lo so chi sono quelli che con il fumo di due grattacieli cercano di coprire il massacro di Genova e una guerra ingiusta come tutte le guerre. Una guerra? Quella in Afghanistan, tuttora in corso, programmata prima dell'11 settembre e anche prima del G8. Io lo so chi con il massacro di Genova ha voluto coprire le ragioni della contestazione. Io lo so. Ma non ho le prove. Abbiamo delle immagini. Le immagini di Genova. Le immagini della tragedia moderna. Senza senso e senza catarsi.